Poco dopo l'11 settembre, un ministro italiano, non ricordo quale ma mi sembra fosse il titolare della difesa, onorevole Martino, commentando le voci che correvano sulle manovre speculative sul dollaro prima degli attentati di Washington e New York, si è azzardato a dichiarare che lui personalmente non escludeva l'esistenza di una specie di Spectre, di un'organizzazione privata in grado di finanziare delle attività terroristiche con iniziative di quel genere. Con il che dimostrava una certa vastità di letture, sia pure non specialistiche, perché lo Spectre, un nome ricorderete che è acronimo di Speciale Esecutivo per Controspionaggio, Terrorismo, Rivendicazioni ed Estorsioni, è un'invenzione di Ian Fleming per il settimo romanzo della serie di James Bond, Thunderball, Operazione Tuono del 1960. E l'ipotesi del ministro in fondo non era tanto azzardata, perché in quel romanzo gli arcicriminali preparano un attentato apocalittico contro gli Stati Uniti e nel successivo Her Majesty's Secret Service, servizio segreto del 1964, lanciano contro l'Occidente un attacco batteriologico con largo impiego di spore di antrace. La vita imita l'arte. Il che non significa naturalmente che Osama Bin Laden o chi per lui abbia tratto ispirazione dall'opera di Fleming o che in essa debbano cercare lumi gli analisti delle intelligence occidentali. Significa forse soltanto che nella nostra cultura si danno certe strutture interpretative applicabili a entrambi i livelli. Perché un'opera di narrativa funzioni, perché sia credibile, come sono credibili i romanzi di Fleming nonostante le loro assurde trame, e deve servirsi di elementi che i lettori possano siano autorizzati a credere di ritrovare nella realtà. E in effetti, se la possibilità di toglierci dagli impicci grazie all'intervento dell'agente 007 non crede nessuno, a dichiararsi convinti dell'esistenza di una super organizzazione privata dedita al terrorismo internazionale sono in molti, da Bush in giù. Non è una fiducia casuale, eh? Fleming in fondo si era inventato la Spectre per un motivo preciso. Nel 1960 la situazione internazionale non gli permetteva più di assegnare il ruolo dei cattivi agli agenti della SMERSH, la sinistra sezione operativa del controspionaggio sovietico. Erano anni di distensione e lo scrittore inglese, a differenza, per fare un nome a caso, di Berlusconi, pensava che i comunisti cattivi fossero uno spauracchio fuori moda. Bin Laden probabilmente ce lo siamo inventati per tutt'altri scopi. Ma oggi anche lui svolge, mutatis mutandis, lo stesso ruolo che il creatore di James Bond aveva assegnato alla Spectre. E dopo la crisi del polo sovietico dell'89, l'Occidente, Stati Uniti in testa, non ha mai smesso di cercare un nuovo nemico su cui focalizzare le paure e le ansie dei suoi cittadini, perché sappiamo tutti quanto siano utili i nemici per creare un sistema ideologico in grado di assicurare il consenso. E se l'evidente sproporzione delle forze ha fatto fallire in sostanza il tentativo di trovare il nemico per eccellenza a livello di stati, non so, nell'Iraq di Saddam Hussein o nella Serbia di Milosevic, nulla esclude che una misteriosa struttura segreta possa servire meglio allo scopo. Ahimè. Gli Stati Uniti e i loro alleati oggi bombardano Afghanistan, che non è un'organizzazione segreta, ma uno stato dotato di una popolazione civile che con il terrorismo evidentemente non ha nulla a che fare. Avranno i loro motivi e non è necessario discuterli qui, ma è importante rendersi conto che i motivi concreti non coincidono sempre col sistema ideologico creato per giustificarli, anzi quasi mai.